ciao, buongiorno, me l'ascoltate. Ehi, beh, è normale, va bene però, è normale. Guarda così, così ha migliorato. Metti quello che ho detto. Così, vai. Provo a parlare. Guarda un po', 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ah, c'è una anche amplificata, non tanto, ma ha aumentato anche l'amplificazione. Non mi ricordo se il approccio c'è. Sì. C'è un micchiaio un po' bassino, aspetta. Guarda, allora, ho aumentato un pelino il micchiaio. Ma non esagerare, se no va a strappare. L'ho abbassato un po' come la prima, dai. Lascialo così che va bene. Deve essere normale, c'è anche un presente. Va bene, penso il microfono normale, va. Andare. Vabbè, prova, poi. Sì, va bene. Tutto positivo. Addirittura si sente anche il respiro. Figurati. E lo fumo io. Guarda nel segnale con quella radio. Guardalo bene che lo stacco, dai. Così è normale, ora. Allora fai da 8:30, io poi non so se sia proprio giusto o perfetto questo, ma comunque credo di sì, fai da 8:30 a 9:20. Allora già andava. A voglia, va bene, sì, va benissimo. Va. Stai lasciandola così, i picchi da parte tua dove sono, in positivo o negativo? Sono in positivo, aspetta, ascolto l'altra. Fa favore, va. Così se domani non piove, perché non lavoro, devo salire a vedere cosa è successo nell'antenna, perché qua è tutto a posto. Aspetta, cioè se io devo scaricare, non lo utilizzo, ma io vado là, mi carico la sua antenna. Allora, voglio vedere che guardo anche quando sei arrivato. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Sono 9:15, sì. Un picchi a 9:20. Quindi la sta andando, no? Diciamo la sta andando. Sì, ma poi è bella anche la braccia. Pensavo che la mia invece già sta spingendo. Sì, vabbè, per essere un microfono normale, magari non è neanche molto aperta di LC questa, capito? Non lo so, ma credo che sia stata allineata come doveva essere. Parroggero. Va bene, no, già funge. Sì, ya. Vabbè, però non c'è un in più da prestartelo, per provarlo. No, non è, dice ce l'ha agganciati all'atterraggio, li usa lui, ma vabbè, non è un problema, va. Se mi fa lo spezzone, Antonio, quando sarà, mi uso quel più 5. E va bene, va. Aspetta, non mi ricordo di averlo, aspetta. No, questo che io è 4 più a casa. E boh, non lo so, tio, forse sicuramente non va bene quello. Non lo so, non posso dire, però credo di sì. Ma quello lì ce l'avevi per il K tu? No, l'altro l'ho utilizzato ed era uno 8 poli, però perché era agganciato al Lincoln, capito? Cioè avevo fatto lo spezzone per l'MC60 con il Lincoln. Vabbè, e tu quello spezzone l'hai provato sul K, però se va bene. No, il microfono MC60 lo stavo provando con Lincoln, quindi ho fatto le connessioni con quello, capito? Ho capito, vabbè, va. Non c'è problema. Bisogna trovare un pezzo di cavo, ma dovrebbe andare bene questo che adesso vediamo quando si libera. Beh, perché io penso che comunque non ci voglia neanche a 6, perché tu quando le dai la portante, la ricezione, la massa, poi che cosa ci vuole? L'alimentazione non gliela devi dare perché usa la sua batteria a 9 volts, quindi l'alimentazione gliela devi dare, il power up non gliela devi dare, quindi non lo grosso. Non me ne intendo io di quelli, cioè se dobbiamo fare uno spezzone per il baracchinetto, quello ce l'ho, ci riesco. Lì bisogna stare un po' pazienti, ya lo sai. Sì, ma io credo che vogliono sì invece, lo sai. Perché siccome la radio stessa che dà l'alimentazione, tu l'alimentazione dal microfono devi togliere. Perché? Perché non puoi alimentare dal microfono, non puoi alimentare la radio, ma quanto so io, poi magari è una stupidaggine, non lo so, devo chiedere. Ma io veramente, Antonio, l'altro giorno questa cosa gliel'ho chiesta, l'alimentazione non la deve prendere dalla radio. Capito? L'alimentazione deve andare con la batteria del microfono, basta. Guarda, non lo so, non lo so perché. Allora, nelle vice 60 le batterie ci vogliono quando la radio non è alimentata, tipo, che ne so, se voglio mettere le vice 60 al tutto, allora ci vogliono le batterie dentro il microfono. Se la radio però è alimentata, le batterie vogliono tolte. Sì, sì, è quello che mi ha detto Coso, capito? Così mi ha detto Antonio lo stesso. Infatti quando fai una spezzone non devi prendere l'alimentazione dalla radio, capito? Per il microfono, ma devi usare la batteria sua. No, tu tieni presente che il microfono che vuoi mettere tu è un MC60 al posto di quello che vuoi mettere, perché è sempre un on-prompt con la batteria. L'alimentazione la stai prendendo dalla radio, hai capito? Sì, allora, il 60 lo usi direttamente così, senza batterie, e prende l'alimentazione dalla radio, quindi tu inserisci il connettore con il 60 e sei già a posto. Ma il più 5, il più 4, Turner, questa roba così, hanno già la sua batteria di alimentazione, quindi non va alimentato dalla radio. Glielo chiederò, dai, adesso non fa, perché tanto è incasinato col fratello che stava aspettando la caldaia e quindi è ancora lì. Sto uscendo sempre verso le 8:30, 9 per entrare a casa, dopo una lunga giornata di lavoro, quindi non ho tempo neanche di provare a vedere il gelato io, figurati. Ho dato il Lincoln a vedere come andava. Va bene, dai, sì, mio mio, adesso alle 5 dovrei essere lì a pedalare ad accompagnare mia figlia e mia moglie. Mia figlia ha un po' di lezioni private stasera, va? Ok? Ma poi magari se rientro presto già riaggancio, va? Comunque sta andando bene così? Per me sì. E anche devo uscire, vado a fare la partita a mio figlio a San Paolo, quindi devo andare anche io. Va bene, già ci sentiamo stasera magari quando rientro. Andà bene, ok, ciao a te, ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao. Io ho lasciato anche il microfono, ok. Vabbè, è una spezzone, cioè giusto per usarlo, notarlo in mano così, una spezzone o un microfonino così, giusto per vedere, sicuramente spinge molto di più, con un microfono, diciamo, amplificato. Sì, va bene, d'accordo, ciao. Chi è? Avanti. Buonasera anche a te, avanti. KK. Ciao Francesco Uranio, qua Gianni da Sassari Bassa, zona centro storico. KK, sì. Confermo. Allora, Francesco, qua mi sta arrivando Santiago 7, la radio è la radio 5, niente, questo è il... questo è quanto? 1000 per la precisione, 1200 me lo mettono per arrotondare, però la cilindrata effettiva è 1156 cm cubici. Sono spostati nel 45, sono nel canale 45, se tu adesso ti sposti li trovi lì, c'ero anch'io poco fa, mi sono spostato un attimo sul 10, adesso infatti dovrei ritornare sul 45, se hai niente, se hai canali alti ci potrai trovare lì, ok? Stamattina però praticamente adesso non ce n'è più, in questi giorni praticamente, ieri per esempio c'era un po' di propagazione, stavamo parlando con un po' di gente, quindi adesso visto che sta arrivando piano piano la propagazione si sta spostando lì, capito? Giusto per sentire un po' anche altra gente là fuori, giusto per quello. Poi se non si trova nessuno si ritorna qua su 10. Oggi no, però i giorni scorsi ho fatto qualche collegamento anch'io, quindi già andava bene, e oggi va bene, finché non cambia il tempo già non si va a nulla. Dai, io ti devo salutare, che mi dispiace mollarti, però devo ci sono gli altri sul 45. Dai, magari se vedo cose che intenzioni hanno, se non c'è propagazione, te l'ho detto, sicuramente ci spostiamo sul 10, ok? Ciao Francesco. Bene, bene, dai, ok. Ti saluto, dai, grazie mille per giusto la chiacchierata super veloce. E niente, dai, adesso ritorno là. Se non succede niente, sicuramente teniamo su 10. Dai, buona serata e tante cose belle, dai, alla prossima. Circo 10. Hola. Ecco qua, un altro pianeta, dai. Si conferma Claudio, va bene, va bene. Vedi, se non per fare certe a voci, dai. Meglio parlare con questa. Abbiamo spento i motori, parcheggiato gli elicotteri, facciamo rifornimento. Tanto oggi non si apre propagazione, mi sa. Cosa? Ho detto propagazione oggi non se ne apre per l'Italia. Cazzo, vai un uraganaero con un camionista, non posso vederci. Non lo senti tu, non sta passando vicino a te. No, qua, sono ricevito e non senta nessuno, eh. Mi gira il 9, non lo senti parlare. Qua in zona, 9:15, Intanto nel 9 non possono parlare per canale di emergenza. Non me la fotte nulla, sono, stanno transitando, con essere vicino a scuola di Ciocca. Sono 9, tutte e due 9:30. 9:15, 9:20, dai. Però non li sento neanche di mezzo millimetro, dico di con al pelo a questa radio. Lo sento io con 430. Adesso stanno transitando proprio qua di fronte, per un canale che già si sente. Va bene, vai. Non è niente già, lascia arrivare. Ui, è 15. E 15 siamo qua. Cappa di Rosmetro. Vabbè, se ce l'hai sotto casa è logico qua. Però a me sono un po' più lontano, magari come se stanno scendendo verso qua, Porto Torres, magari mi qualcosina la sento. Cava cava. Ma era registrata quella voce, no, Daniele? E allora, visto che era sempre così, era un disco registrato. All'inizio sembrava proprio una chiamata così, ma poi man mano che parlavi sentiva sempre, sentite qua cos'è che diceva, sempre fisso. E si abbia il culo, si arraccia, va bene, KK, e tu cambiato radio hai già, o sei sempre con la stessa? No, ho cambiato, ho messo il gas. Stiamo facendo girare quelle linee 45, già va bene, dai. Poi quando passiamo qua bisogna mettere la marcia bassa. Ma anche col gas già va bene. Già va bene a fare 10 anche col gas. Ne ho fatto tanti col gas, sì. Sì, vabbè, però come ti ho detto, nel 45 se c'hai l'altra è meglio, dai. Anch'io parlo con questa anche nel 45, però quando inizia a esserci troppo bailame, con quella là è un'altra cosa. Cavolo! Verso qua stanno scendendo, adesso li sento. Beh sì, adesso passano lì all'incrocio via Italia, io ce li avevo sicuramente nella discesa di Saccaggia. Capito? Ti immagini che dalla discesa di Saccaggia i miei camionisti mi arrivano tutti 9:20, 9:30. Gava gava, stanno prenderanno colpi anche loro adesso, già se ne accorgeranno. Sì, vabbè, ma loro sono uno dietro l'altro, quindi non è che vediamo fastidio. Io li ho sentiti perché o sono usciti dalle gallerie già, e quindi ce li avevo davanti. Ui. Meno male non sta più piovendo, dai. Domani c'è che. Da domani, dopodomani inizia a cambiare. Sarebbe pure ora. Gaba, mi devo sistemare anche il filo dell'antenna della TV, che devo cambiare le calate, che alle volte funziona, alle volte non fa. Gaba. No, io no, non ne ho problemi. Ho fatto l'impianto qua in sala radio, TV a parete, ho messo la canaletta per non vederci i cavi TV, e si vede a posto. No, io c'ho il partitore in ogni stanza, qui centralizzato. Vabbè. Uia. E tu già ancora bucato sì. Se c'è sempre questo dolore alla gamba, come sto in piedi, mi stanco, mi fa male. Uia. Pure a me. Se non mi passa chissà cosa, posso pure manca a travagliare. Ehi, ti passa piano piano. Cos'è quel rumore che hai? il rimettatore attaccato. Ehi, aspetta, lo specchio. Tanto non mi serve. Era perché mi hai illuminato. Era perché mi hai illuminato il rosso, metto capito. Che cacchio. Guarda, un elicottero. Quello grande, quello da 50 ampere. Ah, ti prendi quei cerutti che ti fanno anche calore già. Li ho messi. Adesso c'è cosa faccio, mi attacco con la stufetta d'aria, con la che manda l'aria calda. Si stava facendo bene, poi mi sono stufato. Mamma mia, sempre con questa cosa attaccata, me lo brugetti. Oh yeah. Qua c'è il proxy, quello da 50 o da 60, cos'è? Penso da 50 mi sembra che sia. Sì, da 50, proxy. Sì, quello c'ha due strumenti con la CD sigari anche, quello lì. Esatto. Poi c'è lo US Blanker, eccetera, eccetera. E c'ha anche gli attacchi per i 3 volts, eccetera, eccetera. Esatto, esatto. Ce l'ho anche io quello. Non ho comprato Vittorio. L'ho fatto arrivare da lui, diceva lo sconto. No, funziona bene quello. Qui ci sono due HF attaccati. 2 HF, 3 HF ci sono attaccati, solo a quello. Poi gli altri, le V e le U basi sono attaccate all'altro da 60 ampere, perché sono da 100 watt anche quelli, e poi 430 e 440 sono quelli alimentatori di linea PS50 della Kenwood. No, io ci ho attaccato, però non metto il manico lì, basta. Poi gli altri c'erano l'alimentatore a controllo. 5 sotto per il Lan 48, poi ne ho un altro di alimentatore per il Cobra, ne ho due o tre di alimentatore. Neanche un secondo, c'è una bassa. E io la dico, no, io ne ho uno, due, vabbè, sono sotto i miei, sono lontane dalle radio. Allora ne ho uno da 60, uno da 50, uno da 35, uno da 25 e quelli sono sotto. E poi due di linea della Kenwood. No, io li ho messi in croce, per dire l'alimentatore della radio di su l'ho messo giù e quello è viceversa, capito? Di modo che non diano problemi. No, io nella base non c'ho niente. Non vedi neanche da dove sono alimentati, io tiro sui salvavita e si accendono gli alimentatori e accendo la radio. Ho fatto un impianto ad hoc, dopo il colpo che avevo preso il fulmine, no, mi è tutto a regola d'arte, nulla, poi ci sono la cosa in rame tassellata a muro con tutte le i gialli verdi collegati alla radio, come multibullo. E poi c'ho lo staccantenne elettronico a relè che avevo preso a Fabrizio, con quello abbassi la tensione perché è alimentato, stacchi la tensione, metti il relè chiuso a zero, su, scatta sul relè e sotto non entra manco uno spiffero d'aria. Io qua questo impianto ce l'ho 12 anni, non abbiamo altro problema lo stesso. E poi è una questione di gusto, perché a me piace vedere gli strumenti, capito? Illuminati, fanno stazione. Per me è diverso, è una cosa che è completa. È già completa, e tu sei GB, accendi quelle cose, io qua quando accendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 10 radio HF, tu immaginati perché, chiamiamole HF, sono tutte la stessa dimensione. Io non ne ho veicolari, sono tutti bassi. Inizio a accendere tutto quello e sono tutti illuminati. Io ho la T230 che è illuminato. Accendi l'amplificatore, è illuminato. Accendi il baracchino, l'altro è tutto illuminato. Gli alimentatori sono tutti illuminati, ma ce li ho sotto. Io ho una base, Giulia aveva fatto un'altra base solo per mettere gli alimentatori lontano dal radio. Infatti non senti il ventole, non senti niente. E sono collegati al salvavita, capito? Ho fatto tutto un impianto, io non ne ho di prese come c'hai tu. Io ho le prese industriali, quelle grandi. le grandi industriali, quelle a sportellino, e qui e sotto c'è il pannello che tu non vedi. Io tiro su il salvavita e automaticamente si alimenta tutto, tutto. Non ho bisogno di accendere il primo alimentatore, io tiro su il salvavita, vado e accendo tutte le radio, perché gli alimentatori sono tutti in tensione, capito? Ma è tutto illuminato, al buio è... sembra un albero di Natale, cosa devo illuminare ancora? Io c'ho anche la luce notturna, la luce blu. Non è un blu tutta lenta. Io ho i faretti, cosa devo vedere? Io ho due faretti puntati sopra la radio a muro, fatto l'impianto, cioè sarà radio questa già. E poi ne ho uno in fondo che è puntato lo stesso sulla radio, non lo devo vedere. E poi ci sono tutte le cartine, tutto, cioè questa è un'altra cosa, non è come c'è tu lì in quel mobile. Questa è proprio una sala radio. Da combattimento. Chi è? Antonio, dove sei? Ciao Francesco, buonasera, ben ascoltato, ti avevo riconosciuto, abituato a sentirti con l'altra radio, forse hai cambiato microfono e non ti avevo inquadrato. Va bene che va bene, avanti Gianni. Ciao Francesco, non mi sembra che manco Luca, boh. Ah, no, poi c'è un po' una sina, boh. Che affari che stai usando? Io dai che sto uscendo 10 minuti, ci sentiamo dopo. Ehi Adami, ci sentiamo dopo, dai, buona passeggiata. E ripeti ora. Ehi, scusate che c'ho gente, Francesco, battemi 5 minuti e c'ho gente. Tu mi hai detto che c'è una lampada 48 plus. Ci va bene le BB più 5 perché ce l'ho anche io, ci va benissimo le BB più 5, va bene però, gli aumenti appena, come si chiama, l'LC, la modulazione, li aumenti un po' quella lì e li metti le BB più 5, esce una volta. Fare perché c'ha un circuito di... diverso. Vabbè, comunque prova. Te l'ho detto, comunque esce benissimo così, non c'è bisogno di modificarlo. Basta che tu già sappia rompere le leggi della modulazione e li metti l'MB5. L'MB5 te lo può fare l'attacco allo spino, te lo ricopri lo spino, te lo può fare anche Alessio. Sul più 4 non ti so dire nulla, ma con l'MP più 5 uscivo la bomba. Quando mi chiamava mia moglie per dirmi che era pronto, se stava arrivando, se doveva montare la pappa e cosa. Comunque niente, per il momento lascia così, cosa devi fare? Esci con quello lì, almeno per chiacchierare te la fai lo stesso. E non stai lavorando, non stai trovando lavoro. Thank you. stanno chiamando, aspetta fuori. Sono basi basi di sì. Scusami un attimino che vado in bagno. E quindi adesso c'è solo quella come radio funzionante. Da quanto ho sentito io. capire solo se è ancora stamodulato quello e basta. Cavagava. Perché io lì andavo a prendere il formaggio, facevo anche formaggio buono. E addirittura c'è invitato anche il caffè l'altra volta quando siamo andati. C'è invitato il caffè a bere il caffè. E gli compravo un bel po' di roba, quando andavo 4-5 forme di formaggio li prendevo sempre, ricotta mustia, ricotta fresca, se ce n'era, un po' di tutto li prendevo. Ci sentiamo, ciao ciao.